le minoranze nel periodo della Società delle Nazioni, l'altro la preistoria della vita delle minoranze nazionali nella storia dell'Italia unita fino a quel 1918, che rappresenta il momento nel quale veramente il problema delle minoranze incomincia a costituire un nodo centrale nella storia d'Italia, le relazioni di questa mattina ci porteranno in tre spazi geografici molto ampi e diversi tra di loro. Incominceremo dall'Italia con una relazione della dottoressa Esther Capuzzo, che rappresenta in un certo senso la continuazione del tema che ieri il professor Ghisalberti ha lasciato al 1918, e ci occuperemo poi con due relazioni dell'Ungheria di un caso fondamentale, quindi soprattutto per quanto riguarda gli ungheresi che non vivono più all'interno dello Stato nazionale magiaro nell'Europa tra le due guerre, e poi andremo più lontano in un problema che riguarda la Russia sovietica e i problemi di nazionalità in una fase in cui forse questi problemi ufficialmente non esistono, ma rappresentano invece un grande nodo storico di questo gigante che si andava formando. E prima di dare la parola ai relatori vorrei anzitutto ancora una volta portare un saluto a chi per ragioni di salute oggi non è qui e che questa mattina avrebbe dovuto parlare: Umberto Corsini, che ha contribuito più di tutti, che ha realizzato questo convegno scientifico e di cui avremmo oggi voluto sentire la voce, e Peter Hanak, che è uno dei grandi studiosi di questo problema, che anche lui per ragioni di salute non può essere qui oggi. E io personalmente posso forse ricordare che quando nel lontano 1966 ho letto, fino allora mi ero occupato di Stato della Chiesa, un saggio di Peter Hanak sul problema della predominanza o della dipendenza dell'elemento magiaro all'interno della monarchia austro-ungarica, forse ho sentito l'attrazione prima per occuparmi di questi studi a cui in parte mi sono successivamente dedicato. La dottoressa Capuzzo, che lavora all'Università di Roma, alla Facoltà di Lettere, che è storica del diritto e storica, ha poco tempo fa dedicato una importante monografia al problema della struttura politico-giuridica delle nuove province nel Regno d'Italia, è una specialista dell'argomento e ci dirà oggi senz'altro delle cose importanti e nuove per quanto riguarda il problema di queste nuove province, che sono anche quelle che rappresentano il nodo più importante delle presenze minoritarie nella storia italiana dopo il 1918. A lei la parola. Grazie. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo convegno per l'opportunità che mi hanno offerto di essere qui oggi, in particolare il presidente dell'istituto, il professor Paolo Prodi, e desidero associarmi anch'io ai più fervidi auguri di pronta guarigione per il professor Corsini. Chi voglia cogliere la condizione delle minoranze etnico-linguistiche nel nostro ordinamento, ispirata a misure protettive e tutelata da apposite norme, deve guardare oggi oltre il disposto costituzionale e le relative leggi di attuazione e considerare come questa condizione, attualmente assai positiva rispetto al passato, sia stata il frutto di una lunga ed intensa esperienza storico-politica. Se, come è noto, nello Stato unitario l'esistenza delle minoranze linguistiche, peraltro scarsamente rilevanti dal punto di vista numerico, venne pressoché ignorata, quella delle minoranze nazionali acquisì, per le sue vaste implicazioni politiche e culturali, ampia rilevanza all'indomani della Prima Guerra Mondiale, con l'annessione delle antiche province austriache. Nel campo antropico, infatti, la vittoria italiana aveva sconvolto la tradizionale situazione etnica di quelle terre. Le nuove frontiere, inglobando minoranze alloglotte, provocarono notevoli mutamenti per i movimenti di popolazione verificatisi nelle zone di confine e nei territori immediatamente retrostanti a causa dell'allontanamento spontaneo di elementi non italiani del personale del cessato regime austro-ungarico e per l'opera di epurazione politica compiuta subito dopo l'occupazione militare. Mutamenti che vennero inoltre favoriti dalla facoltà di opzione concessa dalla nuova normativa in materia di cittadinanza prevista dai trattati di pace. Sul piano etnico-linguistico, ma ancor più su quello politico, l'inserimento entro i confini nazionali di tirolesi di lingua tedesca e di slavi di lingua croata e slovena che, animati da sentimenti contrari all'annessione, erano spinti a considerare come loro patria un'entità statale non coincidente con quella italiana, provocò l'insorgere di gravi problemi che pesano ancora oggi sulla realtà politica italiana anche a causa dell'evidente impreparazione fino allora pressoché mononazionale, data la considerazione soltanto statistica delle minoranze presenti in esso e la mancata incidenza nella vita pubblica di gruppi di una certa consistenza, come ad esempio gli albanesi del Mezzogiorno. In tutti i censimenti, diciamo, fatti dall'Italia Unita fino alla poco prima della Prima Guerra Mondiale, quindi dal 61 al 1901, sono presenti, diciamo, questi gruppi, questi che oggi noi chiamiamo gruppi minoritari, che vengono censiti con criteri diversi, dapprima per anime e successivamente per famiglie. Regolata la successione dei gruppi alloglotti sulla base di scelte realizzate da organi costituzionali, poiché per la particolare condizione di potenza vincitrice l'Italia fu esonerata dall'applicazione del diritto internazionale delle minoranze, nel processo di unificazione legislativa di quelle che vennero chiamate allora nuove province, pur cercando di rispettare usi e costumanze locali, tradizioni peculiari ed abitudini inveterate delle popolazioni di quelle terre, nessuna norma di eccezione, inconciliabile peraltro con un ordinamento unitario, poté essere emanata. Erano del resto problemi del tutto nuovi quelli che si ponevano al Regno d'Italia, fondato su una visione che equiparava Stato e Nazione e che aveva considerato sin dalla sua formazione gli appartenenti alle piccole minoranze presenti sul suo territorio alla stessa stregua degli altri sudditi, non riconoscendo quindi l'utilizzazione delle parlate alloglotte. Ed erano problemi che riflettevano soprattutto le conseguenze dell'impatto con realtà istituzionali, giuridiche e linguistiche profondamente diverse. Gli orientamenti del governo, del comando supremo, delle amministrazioni provvisorie, militari prima e di quelle civili poi, ben consapevoli di queste peculiarità, furono ispirate nella quasi generalità dei casi da una politica di sostanziale rispetto dei caratteri etnici e delle tradizioni locali delle minoranze allogene, politica considerata come lo strumento più idoneo per realizzarne l'inserimento nel nuovo Stato. Un atteggiamento di apertura e di comprensione verso gli altoatesini di lingua tedesca, gli sloveni e i croati, era stato inaugurato dai proclami emanati poco dopo l'armistizio dai governatori di Trento e di Trieste all'atto del loro insediamento nei capoluoghi delle antiche province austriache, con i quali si cercò di operare una conciliante simbiosi tra diversi gruppi etnici anche nel campo linguistico. Nell'immediato dopoguerra, infatti, la questione della lingua venne ad assumere un profondo significato politico, legandosi strettamente con le richieste di autonomia legislativa ed amministrativa che, avanzate dalle popolazioni mistilingui della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia, erano portate avanti anche dalla minoranza francese valdostana, schieratasi a difesa della lingua materna e a favore del riconoscimento dello Stato italiano alle popolazioni di razza e di lingua francese incluse nello Stato, degli stessi diritti linguistici ed amministrativi esercitati dalla popolazione di nazionalità e di lingua italiana. Si trattava naturalmente di situazioni profondamente diverse, da un lato nuclei demici di tedeschi, sloveni e croati, inseriti in una formazione statale non omogenea alla loro etnia e che perciò non potevano definirsi redenti, vissuti fino ad allora in un ordinamento sovranazionale nel quale diritti linguistici erano stati largamente garantiti e che saldavano strettamente la difesa della lingua alla secolare esperienza autonomistica vissuta nel nesso imperiale, dall'altro i valdostani, la cui appartenenza politica all'Italia costituiva un dato indiscusso, ma non per questo meno pregnante e significativo, per definire l'identità del gruppo francofono attraverso il rispetto della sua lingua d'uso e delle sue peculiarità culturali. Da Nitti a Giolitti, i governi italiani cercarono, come noto, di risolvere il problema delle minoranze etniche mediante la concessione alle nuove province di una certa autonomia amministrativa e legislativa ricalcata sul modello delle antiche diete provinciali austriache, che avrebbe potuto costituire uno strumento rappresentativo in grado di garantire nel nuovo quadro politico-istituzionale sia una partecipazione diretta all'amministrazione locale, sia una migliore tutela delle nuove minoranze inserite nello Stato. E l'utilizzazione delle diverse lingue negli uffici pubblici, nelle scuole, nei tribunali continuò ad essere consentita in linea di massima nel periodo armistiziale, salvo considerare sempre la priorità attribuita alla lingua italiana quale lingua ufficiale. Nell'introduzione di questa, infatti, si procedette gradualmente per evitare repentini turbamenti degli interessi dei nuovi cittadini. Fu però soprattutto l'ordinamento scolastico a costituire l'ambito privilegiato attraverso il quale cercare di conciliare nella normativa e nella prassi il rispetto e la difesa dei gruppi minoritari con i criteri pedagogici e didattici allora in vigore nel Paese. Le autorità italiane si impegnarono sin dallo scoppio della guerra e più tardi nella fase armistiziale a rispettare il sistema scolastico vigente nelle nuove province, ma contemporaneamente cercarono di estendere la penetrazione della lingua e della cultura italiana nei territori abitati da gruppi minoritari. Così infatti, in particolare nelle zone mistilingui e nelle aree esclusivamente tedesche sino a quel momento, dove si era indirizzato un certo afflusso di italiani per ragioni soprattutto economiche, ma anche nei maggiori comuni dell'Alto Adige, dove più rilevante era la presenza della minoranza italiana e ladina, vennero aperte accanto ad istituti tedeschi scuole italiane, o anche vennero create delle scuole italiane in loro sostituzioni. Denso di risonanza al riguardo fu il caso, peraltro assai noto, del villaggio di Laghetti di Salorno e di Unterland, dove i bambini appartenenti a famiglie definitesi tedesche in realtà parlavano l'italiano. Se questa tendenza portò frequentemente a sostituire scuole italiane a quelle tedesche nella parte meridionale dell'Alto Adige e delle valli ladine, non mancarono però casi come quello di Trodena e di Anterivo, due comuni a maggioranza tedesca, nei quali vennero invece ricostituite scuole in cui l'insegnamento veniva impartito in tedesco. La medesima opposizione che caratterizzò l'emanazione di questi provvedimenti che vennero adottati dal commissariato generale civile Luigi Credaro si manifestò più tardi anche nei confronti del decreto legge del ministro della pubblica istruzione Corbino, oggetto di contrastanti valutazioni e finalizzata al recupero degli italiani dell'Alto Adige e dei ladini alla matrice linguistico-nazionale di appartenenza, per l'obbligatorietà sancita di avviare i bambini in età scolare a scuole la cui lingua di insegnamento fosse stata quella stessa parlata dalle famiglie d'origine. Le disposizioni in essa contenute vennero considerate da molti come lesive del diritto dei genitori di scegliere liberamente la scuola e l'indirizzo educativo cui avviare i propri figli, e per i particolari criteri di accertamento della nazionalità previsti vennero ritenute in ambito locale come un primo passo verso la modificazione della fisionomia etnica della regione. Nella Venezia Giulia, dove la situazione politica appariva più complessa anche per i difficili rapporti con il regno dei Serbi, degli Sloveni e dei Croati nato dal dissolto impero austro-ungarico, l'azione italiana fu volta invece, come diciamo è stato anche già messo in luce dal professor Ara, al ridimensionamento delle scuole pubbliche slovene e croate, le cui strutture educative vennero alquanto ridotte nei maggiori centri della regione, in particolare a Trieste, Gorizia e Pola, nelle cittadine della costa istriana, cittadine in prevalenza italiane, e anche in quelle mistilingui dell'Istria centrale, mentre quelle private, gestite dalla Cirillo e Metodio, vennero del tutto soppresse. Va rilevato però come, accanto a provvedimenti che ridisegnavano la mappa delle istituzioni scolastiche ed educative della minoranza slava della Venezia Giulia, talora forse in modo non del tutto equanime e rispettoso dei diritti minoritari, altri ne vennero presi dallo Stato liberale per garantire una maggiore tutela a minoranze meno rilevanti e numericamente inferiori, come quella albanese della Dalmazia e quella romena dell'Istria. La nuova legge sull'istruzione, che estesa anche alle nuove province permetteva ai tedeschi dell'Alto Adige di conservare la maggior parte delle scuole elementari e degli istituti di istruzione secondaria previsti nell'ordinamento italiano, si affiancava al disegno di legge proposto da Benedetto Croce, approvato nel marzo del 1921 dal governo, ma decaduto subito dopo per lo scioglimento della Camera, sull'uso della lingua materna nelle valli alpine di lingua francese, il cui insegnamento era stato relegato dalla legge Daneo Credaro del 1911 in ore aggiunte all'orario scolastico. Il progetto di Croce, che ispirato al liberalismo linguistico prevedeva nelle scuole elementari valdostane la nomina di maestri con diploma statale e con una buona conoscenza del francese, sembrò diffondere, seppur per poco, nella Valle d'Aosta, nella Valle di Susa e nel Pinerolese, un certo ottimismo, dopo che nel luglio del 1919 un decreto aveva messo in discussione l'esistenza delle scuole di villaggio, ritenute antieconomiche e poco funzionali, ma che in realtà, pur con i loro limiti, tanto avevano contribuito a ridurre l'analfabetismo, soprattutto nelle zone di montagna. Se per lo Stato liberale il problema delle minoranze etnico-linguistiche è soltanto di quello rilevanti, sia per la loro entità numerica, sia per la loro pressione politica, con esclusione quindi di quelle che oggi sogliono essere definite isole linguistiche, doveva essere risolto attraverso un processo di lenta e graduale assimilazione da realizzare in forme rispettose della legalità, tali da assolvere ad una funzione coesiva tra gruppi minoritari e Stato nazionale. Non mancarono però voci isolate che si espressero a favore dell'insegnamento della lingua materna ai bambini appartenenti a diversi gruppi linguistici presenti nella penisola. Ciò avrebbe quindi favorito anche quelle isole linguistiche sovente trascurate ed avrebbe forse potuto diminuire l'asprezza della polemica sulla questione linguistica nelle nuove province. Caduta nel 1923 con l'istituzione delle province di Trieste, di Pola e di Udine, nelle quali gli slavi costituivano una minoranza in ciascuna di esse, e di Trento, alla quale furono assegnate i sud tirolesi, ogni speranza nella concessione di un'autonomia legislativa ed amministrativa per quei territori, venne meno progressivamente anche ogni possibilità di un'autonomia linguistica per i gruppi minoritari. Per la Valle d'Aosta l'abolizione della lingua francese nelle scuole elementari fu determinata dal dissidio franco-italiano verificatosi per la revoca da parte francese delle garanzie di cui godevano gli italiani a Tunisi e cioè la cittadinanza italiana ai figli nati nel protettorato africano e la scuola italiana, e per la politica di snazionalizzazione perseguita dalla Francia in Corsica a Nizza, che si basava soprattutto sul divieto di insegnare l'italiano nelle scuole elementari. Ciò segnò il primo passo verso quel legame che cominciava a instaurarsi tra politica estera ed atteggiamento verso le minoranze nazionali, che diverrà una costante della politica fascista in ordine a questo problema. Per l'Alto Adige e la Venezia Giulia, invece, la perdita definitiva dell'autonomia linguistica significò la progressiva assimilazione dei loro abitanti nel tessuto demico italiano, nel senso nazionalistico esplicitato nell'adesione agli interessi del governo. Riflesso di ciò fu, come noto, la riforma della scuola elementare italiana avviata nel 1923 da Giovanni Gentile, che proclamava l'italiano come lingua di insegnamento nelle scuole del regno, presentando però una particolare contraddizione nelle cui pieghe forse erano destinate a sopravvivere, sia pur per poco, celate sotto la veste di parlate locali, le lingue dei più consistenti gruppi minoritari. Da un lato, infatti, essa prevedeva una scuola nazionale unica, realizzata mediante la progressiva soppressione delle scuole delle minoranze allogene, con un'unica lingua di insegnamento, quella italiana; dall'altro, concedeva spazio allo studio dei dialetti e delle tradizioni locali, secondo quei principi propri della filosofia neoidealistica, propugnata dallo studioso siciliano, che rifiutava un insegnamento meccanico ed era invece incline a perseguire l'educazione formativa del fanciullo anche attraverso un larvato sistema di liberalismo linguistico. Uno degli aspetti più singolari della riforma attuata da Gentile, ispirata ai canoni della pedagogia più attenta a porre in connessione per lo sviluppo del fanciullo argomenti scolastici e mondo conosciuto dall'alunno, ossia realtà e tradizioni locali, fu il tentativo di impedire l'annullamento del tedesco, dello sloveno e del croato nelle scuole elementari delle nuove province, permettendo che l'insegnamento di queste lingue avvenisse in ore suppletive, secondo quanto già disposto dalla legge Daneo Credaro per la Valle d'Aosta. Da ciò derivava la possibilità per l'antica Valle Sabauda di riottenere l'insegnamento del francese nelle ore aggiunte, che era stato eliminato da Mussolini nei mesi precedenti. Di fatto, nelle intenzioni del capo del governo, il processo di assimilazione delle minoranze alloglotte si risolveva nella contrapposizione all'irredentismo propugnato da sudtirolesi, sloveni e croati di una Aosta italianissima, alla quale riservare, in considerazione del suo lealismo verso lo Stato italiano, un trattamento diverso. Nel campo dei diritti linguistici, ciò non impedì però alla Valle d'Aosta di subire i medesimi provvedimenti restrittivi adottati nei confronti dei sudtirolesi e degli slavi. Con la svolta autoritaria del 1925, come è noto, la condizione già abbastanza precaria dei gruppi minoritari venne aggravandosi sempre più. Nuovi provvedimenti, infatti, ispirati in molti casi alle teorie nazionalistiche di Ettore Tolomei, vennero adottati per accelerare il processo di assimilazione forzata e tendenti a prescrivere l'uso esclusivo della lingua italiana negli atti ufficiali, nell'istruzione, nella toponomastica, ad imporre coattivamente la restituzione in forma italiana dei cognomi e dei predicati nobiliari degli appartenenti alle minoranze. La loro effettiva attuazione, a cui né sudtirolesi, né gli sloveni e né croati da poco inclusi nello Stato italiano, la consapevolezza della loro condizione di minoranze oppresse. Per ciò che riguardava invece la situazione delle minoranze esistenti nelle vecchie province del Regno, che già in passato erano state oggetto di una lenta ma costante opera di integrazione al tessuto nazionale, va rilevato come questa rimase pressoché immutata. Modificazioni rilevanti per lo stato della minoranza sudtirolese si verificarono, come noto, successivamente per effetto degli accordi italo-tedeschi di Berlino del giugno del 1939 e della Seconda Guerra Mondiale, quando venne previsto allora il trasferimento in Germania di coloro che avessero optato a favore della cittadinanza tedesca. Le modalità di esecuzione furono sancite dalle norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di alloggi tedeschi dell'Alto Adige in Germania dell'ottobre dello stesso anno, mentre l'operazione di attuazione degli accordi, condotta assai lentamente, vennero interrotte nel settembre del 1943 all'atto dell'occupazione militare nazista e dell'istituzione dell'Alperwohland, riflettente la volontà nazionistica nazionalsocialista. Se la soluzione delle minoranze mediante il trasferimento da uno Stato etnicamente composito ad uno Stato mononazionale trovò così, con le opzioni, la sua effettiva e più estrema attuazione, essa segnò l'estinguersi del concetto risorgimentale di nazione sostituito da quello della razza, ossia il trapasso da un modello ideale ad un fattore biologico che snaturava lo stretto legame intercorrente tra una popolazione ed il suo territorio, frantumando così un intero patrimonio di valori storici, culturali ed umani. Nel periodo 1943-1945, a seguito appunto dell'occupazione militare nazista dell'Alto Adige e di parte della Venezia Giulia e dell'istituzione nella prima di un'amministrazione germanico-tirolese e nella seconda di un'amministrazione germanico-caneziana, vennero emanati provvedimenti di carattere contingente in campo linguistico e culturale, naturalmente finalizzati alle esigenze dell'occupazione bellica e funzionali al più vasto e programmatico disegno di germanizzazione. Per la nuova minoranza inserita nello Stato italiano con l'effimera annessione nel 1941 della provincia di Lubiana, compattamente slovena nella sua composizione etnica, invece il governo fascista previde una legislazione differenziata che, in considerazione delle caratteristiche etniche delle popolazioni, della posizione geografica e delle speciali esigenze locali, si valeva di alcuni strumenti di tutela minoritaria, come l'adozione della lingua slovena nell'insegnamento delle scuole elementari e l'adozione del bilinguismo nella redazione degli atti pubblici. Tale discorso valeva anche per le zone dalmate occupate di Trause, Benico, Spalato e Cattaro, tradizionalmente abitate da slavi di varia etnia. Con la caduta del regime fascista, anche per le minoranze etnico-linguistiche, si verificò un rovesciamento della loro condizione e si aprirono nuove possibilità in ordine alla loro tutela, che si espressero in alcuni provvedimenti adottati verso la fine del 1945 a favore della minoranza francese della Valle d'Aosta e di quella tedesca dell'Alto Adige per attenuare la spinta separatista manifestatasi in quelle aree. Risolta la tutela della minoranza francese valdostana nell'ambito del diritto interno, la soluzione della Südtirol-Enfrage venne trovata come nodo sul piano internazionale con la stipulazione dell'accordo De Gasperi-Kruber, recepito poco dopo nel diritto pubblico interno a tutela del gruppo altotesino di lingua tedesca. Più lenta invece la ricerca di un sistema di tutela per i gruppi minoritari della Venezia Giulia, che ottennero precise garanzie soltanto più tardi per effetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con il memorandum d'intesa con la Repubblica Federale Jugoslava nel 1954, sebbene limitatamente ad una parte del gruppo sloveno, quella della ex zona A del mai istituito territorio libero di Trieste. A causa, come noto, del ritardo con cui si pervenne alla definizione delle questioni concernenti la ex zona A e la ex zona B, la minoranza slava del Friuli Venezia Giulia rimase oggetto di una tutela diversificata nelle province di Udine, Gorizia e Trieste, alla quale si chiede oggi faccia analogo riscontro una garanzia giuridica per gli italiani rimasti al di là del confine in Slovenia e più ancora in Croazia. Se gli accordi internazionali, le norme costituzionali, le leggi di attuazione e i disposti statutari delle singole regioni hanno permesso di realizzare interventi protettivi a favore delle diverse minoranze esistenti in Italia, con specifico riguardo alle peculiarità di ciascuna di esse, diviene oggi, de iure condendo, auspicabile il raggiungimento di una tutela globale che ponga, pur nel rispetto delle singole caratteristiche e specificità, sullo stesso piano i differenti gruppi minoritari appartenenti allo Stato. Grazie. Grazie. Ringrazio a nome di tutti la dottoressa Capuzzo per questo quadro così lucido e, se posso dire, anche così sintetico, che ci ha portato dal 1918 fino all'accenno a problemi che riguardano la vita attuale del nostro Stato. E un dato mi pare importante, senza anticipare quelli che saranno poi i temi della discussione, che emerge da questa relazione è quello della concentrazione sul problema linguistico scolastico, perché anche negli anni di transizione dal 1918 al 1922 il problema che l'Italia liberale non ha voluto e saputo affrontare è stato quello dell'autonomia amministrativa. E la differenza tra le posizioni dei nuovi gruppi linguistico-nazionali inseriti nel Regno d'Italia e quella che invece è la posizione ufficiale del governo italiano può forse essere sintetizzata nelle parole dell'ultimo borgomastro e ancora sindaco tedesco di Bolzano, Julius Peratoner, che aveva, mi sembra nel 1921, ha detto: Italien hat aufgehört, ein Nationalstaat zu sein. L'Italia, con l'inglobamento delle nuove province, ha cessato di essere uno Stato nazionale. Ecco, in questa differenza di posizioni tra chi rimane ancorato, naturalmente, forse da certi punti di vista anche giustamente considerato i termini numerici del problema al dogma dello Stato nazionale, e chi invece con ragione sostiene l'attuazione dei propri diritti, da questo contrasto emerge forse la impossibilità di conciliare allora queste posizioni, ma direi che su tutti questi temi potremo ritornare dopo. E,